con Donatella May, che saluto. Intanto Donatella, grazie per la tua partecipazione di sabato scorso al Nuovo Cinema Palazzo nella festa spettacolo per i 40 anni di Radio Onda Rossa. Ma figurati, grazie a te e lunga vita a Radio Onda Rossa, come ho già detto. Allora, buongiorno con te per parlare di un tuo prossimo appuntamento, metterai mano a Shakespeare. Sì, beh, è completamente riscritto, sono diciamo le donne, le figure femminili tragiche più famose della produzione shakespeariana, completamente riscritte in chiave comica e femministica. E infatti è intitolato Desdemona, Ofelia, Giulietta e le altre, ovvero se Shakespeare fosse stato femminista. Bene. Senti, dove andrà in scena? Quali sono i giorni? Allora, andrà dal 18, cioè dopodomani, da giovedì a domenica, al Teatro Elettra in via Capodafrica, Colosseo praticamente. E, giovedì, venerdì e sabato alle 21, domenica alle 18. Allora, raccontaci un po' di questo spettacolo. tu sai bene che io faccio tutto al femminile e che sono principalmente una comica, e mi divertiva riscrivere tutte queste donne, appunto Desdemona, Ofelia, Caterina, soprattutto la bisbetica domata, che nel mio caso è un'imprenditrice vegana che si chiama Lady McDonald's, quindi tutt'altro, e mandava di riscriverle tutte in chiave completamente diversa, nel senso le motivazioni rimangono quelle, Desdemona è sposata con Otello, però non vi posso svelare tutto. No. Diciamo che nessuna di loro fa una brutta fine, ecco. Chiaramente. Senti, come funziona? Quante sarete in scena? Siamo sei, perché siamo cinque donne e un uomo, che è Stefano Vigilante. Sì. Le donne sono, c'è un cast molto, di donne molto brave, c'è Francesca La Scala, Barbara Abbondanza, Francesca Cati, Gloria Novazzi, poi ci sono io e poi c'è Stefano Vigilante, che diciamo, beh, non posso dire, ma una pensione, insomma, è una così, una sorpresa, ecco, una sorpresina, un unico maschio. Senti, Donà, è uno spettacolo che già, già proponete da un po' di tempo, e come è andato nel corso del tempo? Si è un po' modificato? Sì, chiaramente si è attualizzato, sì, ci ho rilavorato, sono 15 giorni che rilavoro al testo di Limatura, eccetera, eccetera, perché questo era andato in scena al Teatro dei Satiri esattamente 5 anni fa, nel 2013, poi Satiri ha chiuso. E non l'ho più rifatto perché è un po' complesso, siamo sei, insomma, è un po' difficilotto, quindi sapete bene com'è la situazione del teatro in Italia, specialmente quello indipendente, nel senso che io non ho produzione, quindi sì. È un po' complicato. E quindi l'ho lasciato stare per 5 anni e adesso ho sentito il bisogno di... Era tanto tempo che ci pensavo, perché è uno spettacolo al quale tengo, appunto. Quindi è completamente riattualizzato, è molto attuale, chiaramente. Certo, certo. Senti, nel lavoro di scrittura, quando nacque, come venne l'idea, come l'hai sviluppata? Allora, io stavo facendo un laboratorio di comicità al femminile, sì. E una volta improvvisai una Desdemona che scappava dalle grinfie di Otello e cominciava a ribellarsi a questa situazione. È nata da un'improvvisazione, è nato Desdemona come improvvisazione, poi mi ha intrigato e quindi mi è venuta in mente anche Ofelia. E poi mi è venuta in mente anche Lady Mac, e quindi ho cominciato a scrivere questi personaggetti. E il Romeo originariamente doveva essere fatto da un attore gay, però poi invece ho deciso che no, che di maschi ce ne doveva stare solo uno, e quindi l'ho riscritto. Al femminile anche al quello femminile. Okay. Perché la Royal Shakespeare Company originariamente e appunto il teatro di Shakespeare nasce con attori maschi che facevano le donne, no? Sì. a me mandava un po' di fare un po' il contrario, quindi c'è un Romeo femmina, ecco. Sì. Cioè, è maschio ma è interpretato da una femmina. Senti, ma sono attrici con cui lavori anche in altre occasioni? Francesca La Scala, sì, ci ho fatto un reading in Labracadabra, quello di letteratura erotico-comica, poi ci ho fatto una Losca e Frigida Solitudine, e che altro ci ho fatto? Ci ho fatto un po' di cose, sto facendo il laboratorio di teatro comico con lei all'Artemia, che stiamo insegnando, e quindi sì, ci ho fatto un sacco di cose con lei. Barbara Abbondanza soltanto in questo spettacolo. Che però quando ho scritto Lady Mac ho pensato a lei prima, mentre ancora lo stavo scrivendo, quindi era già per lei proprio questo ruolo. Senti, poi come continuerà la tua stagione? Poi a marzo ripropongo il Mayday Mayday, rispondete, non sono James Bond ma qualche uomo l'ho avuto anch'io. Beh, scusate, ma qualche allarme l'ho lanciato anch'io, perché il mio primo spettacolo comico era Non sono Sharon Stone, ma qualche uomo l'ho avuto anch'io, quindi. E questo è, diciamo, la rispostina, versione, farà parte di una trilogia. E quindi appunto, Mayday, Mayday, rispondete. Poi voglio scrivere Cattivissima May. Il prossimo progetto è scrivere il Cattivissima May e portarlo in giro. Ok. Senti, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web tuoi, e poi ricordiamo anche l'appuntamento con questa rivisitazione di Shakespeare. Perfetto, allora io sono www.donatellamei.com è il sito, e Donatella May su Facebook. Perfetto. Va bene. E l'appuntamento all'Elettra? L'appuntamento all'Elettra 18, 19, 20 e 21, il 21 alle 18, gli altri tre giorni da giovedì a sabato alle ore 21, il biglietto costa 10 euro ma se più 2 di tessera, ma se prenotano a me è 8 euro più 2 di tessera. Ok, ricordiamo a questo punto anche il titolo. Certo, Desdemona, Ofelia, Giulietta e le altre, ovvero se Shakespeare fosse stato femminista. Benissimo. Allora, Donna, un abbraccio e a presto. Grazie, anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.